ore 19:01, sta per iniziare sugli 87.9 di Radio Onda Rossa una nuova puntata di Likewise. Oh yeah, I've been making supper. I got my own key, so I lay in that walk. These are my bodies, signs of full of nyango. In my walk, so good, I'm sorry, catch. Ed è la 68esima puntata di Likewise, da una solita Pink Club per una retta di musica insieme. Sono andata avanti io. Sei andata avanti, sei già nel futuro. No, è la 67esima puntata, martedì 14 novembre. Bentrovate, bentrovate a tutte e a tutti. Sta per iniziare quindi una nuova puntata di Likewise. Se volete seguirci e telefonarci 0649 1750, ci trovate qui fino alle 20. Se volete scriverci likewise@ondarossa.info, c'è il nostro canale Telegram che è likewise-trx. Cercateci. Altro? No. No. Cominciamo. Cominciamo. Dove, girl cow? Dal loro... Se volete urlare potete farlo pure voi, anzi se vi serve in questi giorni mettetevi questa canzone. Perfetto. E urlateci sopra così... Che si mischia con, esatto, il tutto, si mischia. Nessuno dice niente. Loro sette pollici di debutto, da un lato Girl Cow che abbiamo ascoltato, dall'altra Sweaty Dog. Che è una copertina che bellissima. Bellissima, è vero. Uscito per la Fear of Missing Out Records, che è un'etichetta che noi sentiamo spesso, uscito lo scorso 6 ottobre. giovane, diciamo, in ascesa band di Manchester. Parlavamo di Manchester l'altra puntata, ci ritorniamo questa puntata. Insomma, hanno cominciato con un suono un po' più morbido e poi subito sono esplose con questo post-punk che ci piace tanto. Moltissimo, ci piace molto. Quindi, come immaginate, non ci sono tantissime notizie su di loro, ma già diciamo il debutto è abbastanza significativo. Sicuramente sentiremo parlare di loro. Sapete che qui a Likewise ci piace in qualche modo mettere artiste che stanno quasi per diventare famose, che non lo sono ancora e che comunque hanno molto potenziale, soprattutto artiste che sono do it yourself, in qualche modo, che fanno delle cose sulla scia delle Riot Girls, perché siamo un po' lì, un po' noise, un po' le canto un po' come King Gordon, c'ha questi richiami al gotha nostro preferito, per quanto mi, cioè, non so se parlo anche per Dora, anche vostro, ditelo, dito anche vostro preferito. In qualche modo ve lo stiamo inculcando, se non lo era. Una delle cose belle, vi abbiamo dato un po' i nostri riferimenti, anche perché una delle cose più belle che succedono è quando ci dite che una cosa che vi abbiamo fatto ascoltare, un artista che vi abbiamo fatto ascoltare, poi insomma in qualche modo è entrata nella vostra vita. E succedeva questa settimana che insomma qualcuna ci ringraziava per l'ascolto di Daniela Pes, che adesso è in concerto praticamente ovunque, anche molte date sold out. Noi siamo super super felici di questo e insomma, quando questo succede ci riempie di gioia, quindi fatelo, anche perché insomma è un modo per farci sentire l'un l'altra. Se vi perdete qualche puntata, vi ricordiamo che le potete recuperare tutte dal sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info. Basta che cercate col tag Likewise o Likewise-TRX e trovate tutte le puntate di queste tre stagioni ormai di Likewise. Sono le 19.08, noi siamo in diretta, questa è Radio Onda Rossa in FM sugli 87.9, ma anche in DAB a Terni. Ciao Terni, fatevi sentire. Si può ascoltare cercando dalle frequenze DAB Onda Rossa, perché sapete DAB funziona nominale, non ha più diciamo le frequenze come l'FM. Però cercateci, spargete la voce se avete amici che stanno dalle parti di Terni, che ci possono ascoltare in DAB tranquillamente, senza passare quindi dal sito e dallo streaming. Passate la voce, prossimo pezzo, loro sono The Last Dinner Party, Sinner. I wish I knew you back when we were both small. I wish I knew you, but I have gotten too tall. I wish I knew you when touch was innocent. I wish I knew you before it felt like a sin. There's nothing for me here where the world is small, but The Last Dinner Party, era il singolo uscito da poco di questa band che ha firmato per Iron Record, tra l'altro, e diciamo uscirà, annunciato il loro primo album il prossimo febbraio 2024, che si chiamerà Prelude to Ecstasy. Tra l'altro sono in giro per l'Europa, quindi insomma, se vi capita, se siete dal loro parte o se vi interessano loro, sono molto molto molto carine e molto brave anche, sono tutte musiciste fantastiche. Sono cinque musiciste, quindi una super band, comunque molto, quindi, molto potete grande. Anche andarle a guardare dal vivo, sono molto carine, ci sono delle belle interviste in giro, di video interviste, quindi insomma potete anche guardarle, il modo in cui interagiscono, il modo in cui raccontano il loro lavoro, la loro musica, la loro provenienza. In particolare in questa canzone Sinner, insomma, raccontavano che è una canzone che fa i conti con alcune di loro che vengono dal nord dell'Inghilterra e con una educazione prevalentemente cattolica, molto cattolica, profondamente cattolica, e per cui insomma il testo parla di liberarsi di questo senso di colpa che arriva da questa educazione che basta, non se ne può più, che conosciamo bene anche qui dalle nostre parti. Ci sono tantissimi strumenti, nel senso che ci sono tantissimi strumenti nelle loro canzoni, ma ne suonano tantissimi, tra cui anche il mandolino, il flauto. Volevo in qualche modo sottolineare che nella fattispecie suona Emily Roberts, che è anche una delle chitarre soliste. Questo per dire che sicuramente c'è un suono molto corposo e anche un'idea di arrangiamento molto più elaborato del semplice fanno indie rock, diciamo, e basta. Cioè fanno indie rock però con una trama sonora abbastanza stratificata, complesso. Quindi molto... Si preannunciano molto interessanti. Sicuramente il disco uscirà a febbraio, quindi capace che verso l'uscita del disco, quando uscirà un nuovo singolo, ascoltando tutto l'album, se ci piacerà, non è detto, non è detto, lo sapete, se ci piacerà potrebbero ripassare, non sarebbero le prime a cui succede. Sai che la volta scorsa volevo dire una cosa e poi ovviamente che siccome siamo sempre di corsa e tanto lo saremmo pure questa settimana, quindi sti cavoli, che quando abbiamo messo Kate era, non mi ricordo più adesso, però quando abbiamo messo una canzone della settimana scorsa, lei che faceva col coro, aiutami. Vabbè, sì, tra me e lei la memoria ormai ce la siamo giocata ampia, io non l'ho mai avuta, quindi figuriamoci. Cat Frankie. Esatto, vedi, il nome l'avevo azzeccato però. Cat Frankie. Ho scoperto, scartabellando sull'archivio del mio PC, che le avevamo messe insieme, io e te, in una delle puntate di The Chart. Dai. Sì, te lo volevo dire, in realtà questa è una cosa un po' autoriferita, capisco che gli ascoltatori e le ascoltatrici possono non interessare, ma se c'è qualche vecchia, cioè no vecchia, vabbè, insomma qualche storica, affezionata ascoltatrice di Radio Onda Rossa, ascoltatrice del martedì autogestiva femministe e lesbiche, noi facevamo una trasmissione dalle 17 alle 18 che si chiamava The Chart ogni due settimane, che giocavamo insomma sui sei gradi di connessione tra un artista e l'altro, e in una di queste puntate c'era uno dei gradi, era lei, infatti ho flashato veramente tanto. Hai avuto un'illuminazione, una, no, era delle... una cosa carina. A proposito di Last Dinner Party, una delle cose carine che raccontano in una bella intervista è che diciamo uno dei momenti più esaltanti di questa fase in cui appunto stanno lavorando l'album, insomma stanno costruendo la loro carriera, la loro musica, è stato aprire per Florence and the Machine, perché appunto quest'anno hanno aperto uno dei suoi show in Inghilterra e chiaramente insomma per loro è stato tipo una cosa te. Fantastica. Bene, passiamo al pezzo numero 3 della scaletta di questa sera. Io non lo dico il titolo perché tanto avrà cambiato canzone. Sicuramente lei è Violet Knox. Ascent, è la stessa, non l'abbiamo cambiato. Ascent, dai. Violet Knox, sesto album per questo collettivo più che una band vera e propria, perché un trio, sacco di gente in realtà, trio, però che dentro gli album c'è veramente un sacco di persone che fanno varie cose in vari pezzi, quindi insomma mi viene a pensare che per tutte le persone sono coinvolte in realtà nelle registrazioni mi sembra più un collettivo che una band vera e propria. Sì, però in realtà la band è un trio. L'album si chiama Vortex and Voices ed esce per la Somewhere Cold Records, che tra l'altro è un nome bellissimo per un pacchetto. Somewhere Cold. Sì, e non solo, esce anche per la Omega Project in Germania, cioè tedesca, sembra un'etichetta tedesca. Esce in contemporanea su due etichette dislocate in due posti diversi del mondo. Loro vengono da Boston, sono appunto una, diciamo, il trio che compone la base di questa band, sono appunto, fanno elettronica sperimentale. Questo album, devo dire, è un album molto interessante, molto affascinante, anche se proprio cupissimo. Non so se tu l'hai trovato così. Molto cupo. Ma direi che i tempi, insomma, si addice. Si addice ai nostri tempi? Vabbè, a me è piaciuto molto, anche se l'ho trovato complicato, quindi magari non tutte quante. Sì, anche se non perdono mai. Non perdono mai comunque la forma canzone, se vogliamo restare in un discorso un po' più diciamo musicale tecnico, nel senso che è vero che in teoria, cioè, loro comunque sono un trio che fanno elettronica d'ambiente. Però non prendono mai quella tangente per cui diventano totalmente autoriferiti come certi gruppi o certe canzoni, certe musiche, per cui sì, viaggi se sei sulla stessa lunghezza d'onda, se no non riesci a viaggiare e ti risulta particolarmente difficile da comprendere. Invece loro quantomeno hanno sempre, anche questa era abbastanza dentro la forma canzone, al di là del cantato, comunque aveva un inizio, una fine, una sorta di ritornello, quindi in qualche modo abbastanza leggibile per noi, cioè per chi è abituato ad ascoltare musica, insomma, o canzoni strutturate. Per noi umane, volevi dire. No, vabbè, c'è gente a cui piace la sperimentazione, cioè ci sono tante persone che amano la sperimentazione totale nella musica, però insomma loro in qualche modo riescono ancora a stare su quel terreno dell'ascoltabilità per un pubblico più ampio, ecco, facciamo così. Sei pronta per il prossimo pezzo? Sono pronta per il prossimo pezzo. Vi ricordiamo che state ascoltando Likewise, che sono le 19:23, che siamo al pezzo numero 4, Afraid of Hates, i Boy Genius. Play! Hai ragione. Non scherzia. I know that I fucked up when I told you I'm afraid of heights. It made you wanna test my courage. You made me climb a cliff at night. You wanted me to jump and I declined. You called me a coward, I replied. I don't wanna live forever, but I don't wanna die tonight. When the black water ate you up, like a sugar cube in a teacup, I got the point you were making when I held my breath till you came up. There's been a run of fires downtown on half-built construction sites. I know you never liked a townhouse. I've seen you climb a crane at night. If they ever catch you at it, I know you'd want me to be proud that you took a rich man's dream and brought it with you on your way down. 'Cause one man's dream is another man's death. I remember when you told me that, didn't know what to say, so I just laughed. But now I know it's not funny. I never rode a motorcycle, I never smoked a cigarette. I wanna live a vibrant life, but I wanna die a boring death. I know I was a disappointment, know you wanted me to take a risk. Not everybody gets the chance to live a life that isn't dangerous. You called me cry baby, but you're the one who got teary, telling me Boy Genius, Afraid of Heights, tratto dall'EP The Rest, uscito per Interscope Records lo scorso 13 ottobre. Insomma, la super queer band che vi fa impazzire, sicuramente fa impazzire il mondo, esatto. Visto che il loro tour è stato veramente, insomma, stra seguito. Ma ho visto anche il numero di ascolti abbastanza elevato rispetto alle artiste che solitamente mettiamo alla Quasi, che lo sapete, non mettiamo artiste che non hanno bisogno di noi in qualche modo, a meno che non siano dei personaggi a cui siamo particolarmente affezionati o ci siano motivi particolari, ma loro stanno avendo moltissimo successo con quest'idea nata quasi un po' per caso, per amicizia e per amore. Un'amica ascoltatrice che per fortuna di Likewise, esperta di fama internazionale proprio su Boy Genius, a cui avevamo chiesto di scriverci qualcosa perché, insomma, essendo appunto esperta di fama internazionale, ci dice, io ve lo leggo, come ci è arrivato: puoi dire che Boy Genius sono del tutto fuori target rispetto alla programmazione di Likewise, per riprendere quello che dicevi. Solo nell'ultima settimana hanno preso 6 nomination al Grammy, esatto. Sono andate al Saturday Night Live a fare le scenette sceme con Timothée Chalamet e sono su un paio di copertine di riviste fashion, c'è una linea di gioielli, il loro simbolo è il dente, però $20,000 di questa ultima cosa vanno al National Center for Transgender Equality, quindi insomma sottolineiamo questa cosa. Sono amiche di Billie Eilish e Taylor Swift, immagino siano diventate ricche, non so se Julian Baker compra ancora le calze in sconto da Aldi. Hanno sicuramente un pubblico fatto al 99% di adolescenti LGBTQI e queer e tutto quello che ci viene in mente, è emo e decisamente bianche. Su The Rest, che dire, non sono outtakes del disco, il disco precedente con il quale sono andate in concerto, i pezzi sono nati dopo l'album, solo Afraid of Heights esisteva già e non è entrata nell'album perché non le hanno trovato un posto. Lo considerano tutte, le altre due, il miglior pezzo scritto dalla Dacus, ma l'album funzionava bene così com'era. Ovviamente gestazione completamente diversa, perché per l'album si sono chiuse in studio 114 ore al giorno, non facevano cose insieme da anni e ci hanno investito tantissimo. Qui è stato tutto più sciolto, nel senso che tutto è nato durante un tour in cui non sono state idolatrate da tutte, quindi c'era meno ansia e più gioia probabilmente. Insomma, questa è la recensione, il racconto live della di un'altra Sonica, Olivia Sonica, insomma, che è una nostra ascoltatrice, quindi questo è anche un grazie a Olivia Sonica per questa presentazione, che non avremmo potuto fare meglio. Questo è anche un invito a tutte voi a presentarci le vostre band preferite, le vostre artiste preferite, e magari anche scriverci due righe, che quindi possiamo ricordare che questo super gruppo è formato da Julian Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus, che sono tre artiste che hanno pubblicato diversi dischi in modo autonomo e solista, ma che a un certo punto, come dice Bridgers, cioè una specie di incidente, tutti ognuno dei membri della band era amica, insomma, anzi non amica, fan del lavoro dell'altra, e poi sono diventate amiche, in qualche modo si sono trovate a lavorare insieme, anche perché volevano un po' sfatare questa cosa, cioè volevano andare un po' contro questa cosa dell'industria musicale che tende a mettere le donne l'una contro l'altra, perché spesso probabilmente nelle interviste, come hanno dichiarato, c'è sempre quella domanda: ah, ma che ne pensi della tua collega, ma che ne pensi dell'altra tua collega. Invece loro, proprio per andare contro questa idea che si fossero l'una contro l'altra, nonostante venissero da universi musicali un po' differenti, si sono messe a suonare insieme e gli ha detto pure benissimo. Il nome della band è uno scherzo, un gioco, ovviamente. Boy Genius, perché c'è sempre appunto il famoso ragazzo musicista che pensa di essere che scrive a loro i pezzi, ovviamente, che pensa di essere il genio della musica, soprattutto quando si interfaccia con una musicista del sesso, diciamo, femminile e variegato, non binario, eccetera eccetera. Ed è molto carino come hanno lavorato al loro primo EP, che secondo me è un'idea proprio veramente, diciamo, orizzontale, nel senso che è super insomma, diciamo, paritaria, nel senso che ognuna di loro ha portato una traccia completa, cioè un pezzo che c'aveva completo e un pezzo da lavorare, e quindi poi insieme li hanno lavorati tutti quanti, ed è uscito il loro primo EP nel 2018, che era autoprodotto. È uscito il disco di cui parlava la nostra Sonica nella recensione al volo che ci ha letto Donna Sonica, che è The Record, che è uscito a marzo di quest'anno, quindi potete recuperarlo. Poi penso che siano abbastanza famose, c'ha ragione. Un tantinello, direi. Un tantinello famose che non hanno bisogno di noi, ma se per caso non eravate, diciamo, incappate in loro, ve le abbiamo fatte ascoltare, quindi adesso recuperatele. Potete recuperare pure voi. Prossimo pezzo, siamo al quinto pezzo. Lei si chiama Nadine Shah, Topless Mother. Yours is mine. What you don't hang out on your washing line. I wanna be inside your mind. Your topless mode that is hidden in mine. I wanna get inside your house. I wanna have a prop I knows about. When you were born, you broke the mold. Another lie to you, you're more than told. Sinatra. Of your seat, I pay you money just to humor me. You take a bath each time you leave. The satisfaction that it bothers me. I'll show you how, if I may please, to serve you up some mutual therapy. Nadincia, Topless Mother, singolo che preannuncia anche questo album che uscirà a febbraio, a fine febbraio del prossimo anno, e insomma è un ritorno di questa musicista, autrice, compositrice, che insomma ha l'attivo già, questo sarà tipo il quinto album se non ricordo male, sei tu quella che fai conti, sì, di solito, molto interessante, il quinto, sarà che il appunto si preannuncia come molto bello, visto che le ultime cose erano un po' meno interessanti. Quindi insomma una carriera che comincia nel 2013, album in cui Nadine, che ha una arriva da una famiglia abbastanza interessante come mix di culture, madre britannica norvegese, papà britannico pakistano, e quindi insomma molte di queste cose entrano nella sua musica. Alcuni album sono veramente molto belli, belle, quindi se non la conoscete recuperatela. Anche perché secondo me non ce n'è uno uguale all'altro, perché esatto, in qualche modo in tutti, cioè è molto difficile dare una definizione unica della musica che fa, perché la sua musica spazia molto tra appunto queste influenze un po' della tradizione, della cultura diciamo musicale orientale pakistana, le interpretazioni di Ghazal, la musica sufica, poi ci sono comunque influenze jazz, roba più blues, progressioni blues, incursioni post-punk. Quindi in questi quattro album che finora lei ha pubblicato non ha mai fatto comunque lo stesso disco, quindi probabilmente ce n'è qualcuno che rientra nelle vostre corde. Assolutamente. Così, intuito. Anche per quanto riguarda i testi, nelle sue diciamo esplorazioni liriche si parla di femminismo, islamofobia, si parla di crisi dei rifugiati, si parla di tutto quello che passa da queste parti e tutti gli argomenti che ci interessano, ovviamente anche diciamo con uno spessore notevole. Quindi insomma, se non l'avete mai ascoltata, speriamo di avervi intrigate. Esatto, quindi nell'attesa che esca a fine febbraio Filthy Undernest, potete ascoltarvi il suo ultimo disco, che comunque è Kitchen Sick, che è uscito nel 2020, e tutti gli altri. Il suo debutto è del 2013, quindi sono passati già una decina d'anni, e comunque è una musica sicuramente molto molto interessante e cambia tantissimo da un disco all'altro, quindi probabilmente potreste trovare qualcosa che vi piace particolarmente. Prossimo pezzo, Francis of Delirium, Blue Tuesday. Francis of Delirium, Blue Tuesday, uscito in realtà ieri, tipo questo singolo, l'altro ieri, insomma, sì, oggi, insomma, vabbè, due giorni insomma, fa, pochissimo fa, ed è un, diciamo, Francis of Delirium, sono questo duo. No, questo è un bedroom project. No, è sì, un duo, è un duo nel senso che diciamo il Francis of Delirium, la band è composta da Jana Barich, che adesso ha tipo 21 anni, sì, insomma, giovanissima, che scrive, suona la chitarra, insomma, e canta in questa band, e l'unione del con il batterista Chris Evett, che diciamo in realtà è di Seattle, ma insomma è più grande, tipo ha 10 anni più di lei, e si incontrano questi lei e lui si incontrano in Lussemburgo con le stesse diciamo ispirazioni anni 90, Pearl Jam, Nirvana, insomma è anche molto shoegaze come abbiamo potuto sentire da questo pezzo, e insomma riescono a tirare fuori questa band. Però diciamo sei diversa, eh? Te la sei diversa la storia. No, non la so diversa. So che insomma è uno di quei progetti che sono insomma stati pensati tra virgolette in cameretta, perché immagino che sia una di quelle situazioni in cui a 17-18 anni, età in cui lei ha iniziato a suonare, a far vedere anche a un pubblico più vasto la sua musica. Infatti ha già pubblicato 3 EP. Il disco che uscirà nel 2024, non so in che mese, marzo. Si chiama marzo, Lighthouse si chiamerà, tramite la The Alliance Recordings, e sicuramente è una giovanissima artista, per quello dicevo Bedroom è una di quelle situazioni in cui la cameretta in qualche modo ha sempre avuto il suo là per le cose, come ci è capitato spesso con artiste molte, molto giovani. Diciamo che è un termine che piace tanto anche ai giornalisti, questo è vero, è una di quelle cose che gli piace coniare per infilare insomma queste situazioni in una narrazione in qualche modo divertente. Però sì, io mi aspetto grandi cose da questa Jana Sappilo, quindi, l'hai chiamata insomma, sì, quindi insomma no, nel senso che mi piace molto come compone, mi piace molto come canta, mi piace molto come suona la chitarra, quindi insomma mi aspetto grandi cose da questo album. No, soprattutto perché è giovanissima, ha già tutta questa grinta e questa padronanza in realtà della musica, degli stili musicali. A suo dire il disco esplorerà tematicamente cioè tematiche come l'oscurità personale, i barlumi della luce e lo spazio liminare tra tutto questo. Niente di meno. Esatto, un temino. No, l'idea è che ci sia questa luce che la guida verso uno spazio in cui può essere più aperta e accettare l'amore e la gioia. Va bene, è positiva. Esatto. Pensi se positiva. Vabbè, anche quello è il titolo, Lighthouse, insomma si riferisce verso il faro. A quello. Esatto. Ce la farà. Io ce la farà, se ce la farà tornerà. Se non la sentite a marzo, vuol dire che ci ha deluso enormemente. Prossimo pezzo, lei si chiama Yi La Bamba Mas Manos. Sentía yo tratto dall'ultimo album intitolato Lucha, uscito per la Tender Loving Empire. Ila Bamba Masmanos abbiamo ascoltato. Tender Loving Empire ve la consigliamo, andate a guardare, sarebbe l'impero l'etichetta dell'amore tenero, che è un'etichetta, ma insomma trovate anche altre cose, autoproduzioni, cose artigianali, insomma, che magari vi possano interessare. Comunque è molto interessante andare a guardare che cosa si produce da quelle parti. Luz Elena Mendoza Ramos, voce, produzione e svariati strumenti. Io l'ho vista suonare la chitarra, ma credo che ne suoni anche altri. È appunto la persona, che la donna che si cela dietro appunto lo pseudonimo di Ila Bamba. Sì, anche se c'ha anche una band, diciamo, comunque ci sono altre e altri che suonano con lei, tra cui Julia Mendiolea alla chitarra e al basso, Antonio Montanez alla batteria, Gordon Walter al basso, Isabella Wyatt Walker alla voce e alle percussioni. E ha pubblicato 5 dischi e 2 EP, quello che è uscito ad aprile di quest'anno è il loro sesto disco. È nata e cresciuta nell'Oregon, è un'americana messicana, in realtà fa un po' anche su e giù, è stata sicuramente a vivere parte via Portland, adesso probabilmente ha vissuto anche e vive anche in Messico. Il loro primo album di debutto è del 2009, quindi parliamo già di un'artista con una carriera abbastanza solida e costruita. Sono quasi, se non sbaglio i conti, 15 anni di carriera. E prima dell'uscita di questo sesto album è uscito un album nel 2012 che conteneva 14 canzoni, che si chiamava Mujeres, che era sempre stato prodotto da lei, e i temi di quel disco si concentravano, come potete anche intuire dal titolo, sull'esperienza sua di Mendoza come messicana nel clima politico del, diciamo, di quell'anno lì, del 2019. Era un album che aveva dedicato a sua madre, a tutte le donne, e cantava appunto della misoginia e degli atteggiamenti maschilisti, ed è uscito, l'ultimo disco che è uscito prima di questo di quest'anno. Sì, infatti se dovete cominciare, se volete ascoltare qualcosa, probabilmente cominciate da Mujeres. Sì, insomma, e i temi di cui vi abbiamo, insomma, che Pinclo vi ha accennato, appunto il machismo, la misoginia, ma insomma anche la cultura queer e la sua identità chicana, fanno tutte parte sono tutti temi che fanno parte appunto della sua produzione. Quindi è una voce, un personaggio e appunto una compositrice assolutamente da scoprire. Lei, come ci dicevamo nel fuori onda, è in realtà era presente in un pezzo di Ora Kogan che abbiamo messo la settimana scorsa, quindi insomma con un album Formless che ci è piaciuto moltissimo, e quindi insomma anche a volte ritornano perché le connessioni sono una delle cose che ci piace di più. A Likewise sono le 19:50. Un'ascoltatrice ci chiede se ci sono chitarriste o bassiste che hanno voglia, e bassiste, giusto? No, hai ragione. Chitarriste e bassiste per suonare delle cover punk di gruppi pop intorno a Roma, anzi a Roma. Quindi, se volete, se avete questa idea, noi vi mettiamo in contatto. Potete scriverci a likewise@landarossa.info. Chi vuole suonare per noi qua è benvenuto a Likewise. Quindi, figuriamoci se non lanciamo appelli a favore di musicali. Assolutamente, certo, ditecelo. Loro sono The New Eves, Original Sin. We'll be right back. right, and sometimes the darkness shines so bright. I know the state and made up their minds, and the demons were had a good time. God, you see the cruel or blind. Now why the hell am I supposed to go now? Queste erano The New Eves Original Sin. Insomma, guarda, già ci stanno simpatiche. Ci sono simpaticissime. Loro si sono messe a suonare questa volta nella cameretta, si può dire, perché stavano veramente nella cameretta. No, quelle stavano insieme al letto. C'era proprio scritto così. Beh, non sappiamo. Diciamo. Come avete potuto ascoltare, quattro sono loro. Sì, sono quattro. Quattro sì, musiciste. Sì. Insomma, che suonano un po' tutto, dal flauto al violoncello, al violino, un po' di questi strumenti li avete, oltre al basso, batterie, insomma le cose solite, che avete sentito in parte anche in questo pezzo, che sembrava insomma un come si può dire, una Patti Smith che incontra le television, sono insieme adesso però. E gli piglia bene. E gli piglia benissimo. Perché quello che secondo me è una delle cose che si sente di più è che sono proprio contente e felici di suonare insieme, che stanno facendo una cosa che piace a tutte loro e in cui si divertono. E sì, hanno queste influenze che ovviamente sono molto anni 70, pre-punk, punk, perché poi su Patti Smith per esempio quella è sempre la grande questione, era punk, non era punk, era quasi punk, vabbè, ma non ce ne frega niente, era quasi punk. Ma non ci interessa. Queste quattro musiciste che non sono solo musiciste vengono da Brighton, poi fanno anche altre cose oltre a suonare ed escono per la Slow Dance Records, quindi insomma per il momento c'è soltanto in giro questo EP, un 7 pollici lato A lato B, insomma Original Sin, dall'altra parte Mother, esatto, che è quella che è di sottofondo. E insomma aspettiamo anche da loro grandi cose, perché insomma ci hanno divertito parecchio, sono molto fresche, molto divertenti e noi siamo già molto in ritardo. Sono le 19:58, state ascoltando Radio Onda Rossa, questi sono gli 87.9 in FM, dopo di noi Note Cose Città, poi Semiglia e Morfire, quindi ci avviamo verso la chiusura della nostra scaletta di questa sera. Ci mancano due pezzi, ma chissà se ce la faremo. Comunque questo lo mettiamo Bilot, The Good Life. But you really gotta let it go. It's a big planet, and we're never really in control. Just as you know that you will not regret it. Gotta be super sick, do we need a medic? Need to move through his soul, baby, it's magnetic. It really isn't all that bad. Sat in the back seat, no schedule and no solid plans. Just as you know that you will not regret it. Gotta be super sick, do we need a medic? Need to move through a soul, baby, it's magnetic. Good Life, Beat Out. Ci volevamo lasciarvi con qualcosa di più allegro e divertente per non prenderci troppo sul serio, se no ci prendiamo troppo sul serio. No, infatti. Non è il caso. Ma poi The Good Life è anche il titolo dell'EP uscito da pochissimo per questa artista scandinava che ha base a Londra e che fa questo K-pop che insomma fa ballare. Quindi. Sì, che è giovanissima, a 21 anni, che è cresciuta a casa ascoltando Stevie Wonder, Ray Charles, i Beach Boys, Soul Green, poi crescendo ha ascoltato anche altri artisti. Meno male. No, vabbè, dai. Così per, cioè, per allargare. Ha pubblicato penso circa 3 EP, questo dovrebbe essere il terzo. Il suo primo EP di debutto è stato Electric Blue nella prima metà del 2020, poi c'è stato appunto il Covid. Anche lei appunto giovanissima, in qualche modo abbastanza allegra, ci piaceva insomma, esatto, mettere un po' qualcosa di anche super pop. Ricordarvi che insomma non siamo così seri. In realtà le sue sonorità, quando non virano troppo sul K-pop, mi fanno pensare, ed ecco perché la volevo insomma ci suggerivo di metterla, perché mi fa pensare a, non ti ricordi quella band che si sentiva un sacco negli anni 90, fantastica, che non so che fine abbia fatto, che si chiamava Cancer Desert Sexy? Sì, CSS, come no, adorate, brasiliana insomma, certo, bellissima. Ecco, credo che siano anche nell'automatico di Radio Andarossa probabilmente. E comunque insomma, quando ho ascoltato soprattutto quella che stiamo ascoltando, Cool Whip all'inizio in sottofondo, mi faceva pensare a quella, diciamo, quel modo di fare pop, quelle sonorità insomma di CSS, quindi insomma mi ha fatto simpatia. Sono le 20.02 e 46 secondi, noi stiamo per lasciare i microfoni a Note, Cose e Città, che inizierà alle 20.15, non scordandoci di dirvi che venerdì 17 alle 18 al centro sociale autogestito Forte Prenestina, via Federico Del Pino, c'è una serata a sostegno di Radio Onda Rossa. Alle 18 c'è l'assemblea, per chi può interessare, la radio ai tempi del DAB, cosa cambia nella comunicazione radiofonica con l'arrivo del DAB, quale possibilità di presa di parola per i movimenti sociali con questo passaggio. È una discussione aperta a tutti, perché appunto poi, come scopriremo venerdì, non è esattamente così semplice capire come funziona il DAB, chi insomma lo gestisce, come, perché, quali appunto possibilità ci sono per poi tutti, diciamo, le soggettività che non stanno dentro un discorso capitalista. E poi ci sarà il concerto invece DAB, anche quello con la U, però Paolo Baldini, Dub Files, che incontra i Mellow Moods Magnana Dub Tour dalle penso 22-23, dalle 23, eccolo lì. Quindi questo venerdì 17 al Forte Prenestino a sostegno di Radio Onda Rossa, siateci anche voi. E noi ci sentiamo la settimana prossima. Non lo so, piccolo. Sentiamo la settimana prossima. Direi prossima che... con un pezzo. Adesso lo annuncio, così non puoi cassarmelo la prossima settimana. Ah, già lo annunci. No, lo voglio annunciare. Vorrei mettere questa artista che sembra molto pop, ma in realtà ha delle cose abbastanza interessanti. Anche lei è giovanissima, si chiama Senseless Optimism, che come potete immaginare gira nelle nostre possibilità di scalette da un po'. Aveva vinto la scaletta questa sera, ma come al solito noi siamo sempre in ritardo, e quindi tocca settimana prossima primo pezzo, promesso, tipo look, il gancio che si tira insomma a tutte. Sappiamo che ci ascoltate a prescindere, vi ringraziamo per questo, baci e abbracci, passate una buona serata in compagnia di Radio Onda Rossa, ci sentiamo presto. Se volete recuperare tutto quello che è stato fatto e detto sulla Palestina, vi ricordo che sul sito c'è tutto, compresa la staffetta di domenica, dove ci sono stati tanti interventi molto interessanti da tante radio, quindi insomma andateveli a cercare. Cerchiamo sempre di tenere una voce, un orecchio a voci che sono diverse dal coro, che insomma un po' ci opprime dei media mainstream. Quindi recuperate ondarossa.info. Noi vi salutiamo la prossima settimana. Ciao.